A chi deve parlare? Io qui direi cominciamo in ordine alfabetico, così non ci sono privilegi per nessuno. Belluno Feltre, io ho in ordine questo, se qualcuno nel mezzo dice io non ci sono lo dica, perché io qui ho Belluno Feltre, Bressanone, Chioggia, Concordia Pordenone, Feltre, Gorizia, Padova, Trento, Trieste, Vicenza, Vittorio Veneto, cosa manca? Verona? Vabbè, Verona non c'è. E Venezia c'è però. Devo dire, quindi Venezia. E ancora? Udine, giusto? C'è Udine? Udine, va bene, quindi 12 interventi, direi 10 minuti. E la forma del tavolo serve anche per non spostarsi eccessivamente, pregherei di volta in volta di venire qua, c'è il microfono in modo tale che tutti possano sentire al meglio, fino a che uno non preferisca rimanere al tavolo con tranquillità, se ha la voce alta. Ecco, allora pregherei di fare un intervento sulla diocesi di Belluno Feltre e anche di dire il nome, che ahimè io non so chi sia. Non ci siamo poi presentati tutti, una delle tradizioni dell'istituto è anche quella della presentazione reciproca, che non abbiamo fatto, a dir la verità. La potremmo fare rubando 5 minuti all'intervallo, eventualmente. Avanti, Belluno Feltre. Feltre, allora Feltre. Nome. Grazie. L'archivio contiene documenti a partire dal 1509, fatto passerà l'eccezione perché dovevamo subito un grandissimo incendio e questo diventa una grande incendio. La prima visita pastorale di Belluno nel 1503, ed è conservata nel fondo un libro che viene trovato in libri dell'archivio stesso. Infatti non abbiamo, uno dei grossi problemi dell'archivio di Feltre è proprio rappresentato dalla dispersione all'interno di più fondi della documentazione relativa agli atti digitali, sia l'atto digitale che ho detto, sia quella che noi abbiamo definito documentazione sussidiaria, cioè quella più paragonica della visita all'atto digitale. Le prime visite comunque, quelle del 500, sono conservate all'interno di questo fondo fondolistico. Sono visite, la prima è totale, riguarda l'intera legge spettrina, le successive sono visite parziali oppure visite di controllo. Sono particolarmente interessanti anche perché la documentazione è ottimamente conservata e di conseguenza è proprio leggibile in tutti i sensi. Abbiamo, per quanto riguarda la tipologia, la scrittura, è documentazione sostanzialmente in lingua latina. Per quanto riguarda le visite del 600, le prime visite del 600, del primo trentennio, sono anch'esse conservate in uno dei libri di questo fondo e in particolar modo il libro 124. Le successive invece sono conservate nel fondo che viene denominato Acta Digitale. Di questo fondo c'è da dire questo, si tratta sostanzialmente di tutta quella che è la documentazione ufficiale, cioè l'atto di visita vero e proprio, mentre la documentazione da allegare, lettere, eventualmente denunce e altre cose sono disperse all'interno di. Per quanto riguarda le visite del 600, qui la scrittura decisamente perde l'aspetto fotografico del 500 e inoltre la documentazione presenta in più parti anche delle abrasioni, quindi aumenta la difficoltà di lettura del testo. Sono visite che presentano un questionario che diventa sempre più preciso e più specifico quanto si avvicina sono visite in latino e accompagnate comunque da documentazione anche in lingua italiana e lingua tedesca. Per quanto riguarda la documentazione in tedesco, va detto che non pone moltissimi problemi perché è accompagnata da un piccolo e da un breve registro in lingua italiana, sarà corretto. E un'altra nota sempre per quanto riguarda questo fondo specifico del 600, man mano che ci si allontana da sempre, le informazioni delle singole parrocchie diventano sempre più succinte, cioè sempre più succinte, sempre più ridotte. E, per quanto riguarda poi il 700 invece, il 700 presenta un problema fondamentale rappresentato dalla bassa Val Sugana, allora controllata dalla Casa d'Austria, perché qui c'è l'intervento massiccio di ostacolo quella che è l'attività di controllo del pastorale del vescovo di Petra stesso, per cui abbiamo moltissima documentazione che, di rapporto tra Petra e la Casa d'Austria che impedisce proprio al vescovo di compiere totalmente la sua attività pastorale all'interno di questa parte della diocesi soggetta. Anche qui la documentazione, forse più rispetto a quella del 500-600, è dispersa in più fondi. In particolare è dispersa per quanto riguarda la zona della Trentina, di quella che attualmente la diocesi Trentina, che costituiva allora la parte più grossa della diocesi Trentina, all'interno di un fondo denominato a parte interna, di cui si sta ultimando adesso la registrazione. Perché di fatto non è quantificabile totalmente quanta documentazione c'è e quanta documentazione ha. Particolarmente interessante è la visita finale, una della visita del 1700, perché nel 1786 la parte trentina della diocesi di Feltre si stacca e viene abbattuta insieme alla diocesi di Trento. Di conseguenza noi abbiamo tantissime informazioni sulla diocesi, davvero una quantità enorme di documentazione che ne rappresenta, fornisce allo studioso che si avvicina un quadro decisamente ampio e chiaro, per cui è una visita che varrebbe la pena davvero andare a studiare anche con il museo. Poi abbiamo il periodo dell'Ottocento, tra il 1811 e il 1819, un momento di vacanzia, ma dal vescovo per cui lì manca anche quella che è l'attività pastorale della propria, c'è la quantità di visita. Visite che riprendono a parte del 1803 e il 1820. La documentazione dell'Ottocento è raccolta in un unico volume, di recente visite, e direi che è piuttosto scarna come informazione, nonostante la presenza di questionari. Comunque, per quanto riguarda questa visita, questo periodo specifico, c'è uno studio di Giuseppe Molina, le visite pastorali della diocesi di Feltre dal 1857 al 1899. Per quanto riguarda il Novecento, l'inizio del Novecento anche qui è piuttosto scarno di informazioni, mentre decisamente belle, complete e interessanti per lo studio sono le visite a partire dal 1915, che presentano questionari da filo scritto, anzi questionario stampato in più pagine, che presenta appunto, che permette alla sindaco di compilare di volta in volta richieste che vengono formulate. E qui ci sono conservate poi visite fino al 1984, l'ultimo che viene segnato, le visite di luce del responsabile dell'archivio sono le visite sul fine 1900. Questo grosso modo è il fondo dell'archivio per quanto riguarda gli i problemi fondamentalmente, se ci si vuole arrivare, i problemi sono rappresentati la questione della lingua, quindi conoscenza della lingua latina, chiaramente, però anche conoscenza della lingua tedesca. Ricordare che non tutto il fondo è lì, è rappresentato lì, ma la documentazione deve essere ricercata. affrontata all'interno di QPI e poi mettersi d'accordo questo sulla terminologia specifica del fondo stesso, perché abbiamo visto precedentemente come determinati termini, quale ad esempio cappella, in Trentino vengono intesi in modo, ad esempio nell'ambito trentino, assunto in modo. Ringratissima. Grazie, nei 10 minuti perfetta, ringraziamo la dottoressa Marina Poyan e vediamo allora l'intervento su Bressanone, c'è Belluno prima, Belluno niente, Bressanone, vabbè se non c'è lo chiamiamo dopo. Bressanone, ecco allora sentiamo Bressanone. Thank you. tre minuti. Grazie, siamo stati nei 10 minuti esatti. Belluno, niente, verrà dopo. Chioggia, il nome così. Sembra giusto, no? Parlerò più di una Thank you. Bene, noi ringraziamo doppiamente Alessandro Voscolo, come per tutti ringraziamento per la relazione che ha fatto, il doppio è per averci permesso di guadagnare 5 minuti. E comunque rimane il tempo predeterminato di 10 minuti, se uno finisce prima, applauso. Un po' di terrorismo fa bene, perché se vogliamo guadagnare un po' di tempo per la discussione siamo tutti costretti da questa maglia che ci in qualche modo stringe. Naturalmente io sono anche poi ben felice di poi leggere con attenzione le cose, ma appunto. Allora, vediamo Concordia, Pordenone. Thank you. beh, la data, ma se ce la illustra brevemente, forse, voglio dire, così anche gli altri lo sanno. Bene, noi ringraziamo lo studente del vaso, ma in realtà, vuol dire, poi eravamo noi, anche noi eravamo così, perché quando abbiamo cominciato a fare i lavori ci siamo trovati davanti masse informi da sistemare e ordinare, lì sono già almeno ordinate. Bene. Quindi passiamo, quindi anche qui doppio ringraziamento, passiamo a Gorizia. Thank you. Vero, ma quello era vero. Questo qua va a pensare lì. Questo qua va a pensare a te. Questo chi è di là? Questo chi è stato lì? Dai, per quanto riguarda prese dall'arcivescovo Francesco Saverio Sin, il quale si impegna veramente nel governo dell'arcidiocesi. Le riprende a pieno ritmo, le riprende e successivamente vengono riprese anche dal suo successore, che è l'arcivescovo Wollmeier. E poi continuano fino ai giorni nostri, continuano con Balland, con il vescovo Zorn, con il vescovo cardinale Missia. Un periodo di interruzione subiscono quando viene nominato, dopo la morte del cardinale Missia nel 1902, e viene nominato un vescovo di transizione che era un professore di religione nel Staps Reale del Gimnasio di Gorizia, famoso, ma era malaticcio, durò in carica 2 anni. E riprendono a pieno ritmo con il grande arcivescovo Monsignor Francesco Borgia Sedeco, un vescovo che ha retto la diocesi in periodi difficili, è stato vescovo di Gorizia e metropolita, no? Perché comprendeva la provincia ecclesiastica di Gorizia, comprendeva la diocesi di Gorizia, le diocesi riunite di Parenzo, di Trieste e Capodistria, di Parenzo e Pola, e Siviglia. Ancora un minuto. Anche due. Sì. Le riprende a pieno ritmo, sia sotto l'amministrazione austro-ungarica, sia sotto l'amministrazione italiana, no? Perché dunque l'amministrazione austro-ungarica è durata fino al 1919, dopo è superata l'amministrazione italiana, no? Ed è stato detto comunque dal 1904 il Sedei fino al 1931. Subiscono un periodo di interruzione delle visite pastorali sotto l'amministratore apostolico Giovanni Sirotti, di origine istriana, che ha retto con l'incarico di amministratore apostolico, ha retto la diocesi per 3 anni, finché è stato nominato il primo arcivescovo italiano di Gorizia, ed è stato Monsignor Marconi, e lui ha continuato a pieno ritmo, non solo le visite pastorali, ma venivano fatte anche le visite dei canali, venivano fatte le conferenze dei canali del clero, no? Ancora oggi continua, e questo ha continuato anche con le visite pastorali, hanno continuato anche con il successore di Marconi, col vescovo Ambrosi, già vescovo di Chioggia, mi sembra, no? Ambrosi, no? Che ha retto la diocesi per 10 anni, poi hanno continuato con il vescovo arcivescovo Pagrazio, che è ancora vivo, si trova a Roma, no? E adesso con l'arcivescovo Coparino, successore di Pagrazio, no? E adesso continuano con l'arcivescovo Pomanco. Bene, ringraziamo il dottor Zonis e proseguiamo con Padova. Io sono Donato Gallo, che ieri ho fatto un intervento, non so, forse un po' a giro. Dico che non senza imbarazzo parlo dell'archivio della Curia Vescovile di Padova, che questa è la edizione ufficiale, anche se in realtà è un archivio diocesano a tutti gli effetti, perché anche io mi pongo dalla parte dell'utente, dello studioso. E invece per discorsi del genere io credo che sia veramente necessario che sia l'archivista che ha il quadro sotto mano, il quadro del materiale. E peraltro l'archivista ha troppi impegni e io comunque non rappresento in un modo assolutamente ufficiale, cioè parlo come studioso che conosce abbastanza l'archivio, soprattutto per la parte fino al 500 inoltrato, e che comunque ha accesso anche alla bibliografia, che è piuttosto estesa su materiali, in particolare sulle fonti digitali. L'archivio diocesano di Padova comprende, oltre che l'archivio propriamente vescovile, quello capitolare, quello della congregazione urbana dei parroci, molto ricco, e quello della mensa vescovile, che sono fisicamente gli stessi locali, ma mantengono una distinta articolazione. Peccato che non esistano degli strumenti di corredo degni di questo nome, e sarebbe auspicabile che lavori come quello intrapreso per l'archivio patriarcale di Venezia, come quello recentissimo per Adri e Rodrigo Adria, che sono così anche degli strumenti veramente importanti, potessero essere finalmente affrontati anche per l'archivio di Padova. Il fondo visite pastorali è provvisto di un inventario a stampa, che però non è uno strumento archivistico, è un repertorio in ordine alfabetico di località per nomi di parrocchie. Il problema della diocesi padovana è la sua grande articolazione territoriale, che diciamo così, ha dei caratteri comuni ad altre diocesi che sconfinano dall'ambito anche storico del tipo fontano delle città, come succede per Verona rispetto alla Lombardia, per Vicenza rispetto al Basso Veronese, per Treviso verso l'attuale veneziano, però è un problema grossissimo per questa diocesi che comprende attualmente parrocchie in quattro province, che si va dalla base del Primiero, cioè dal confine tra Trentino e Feltre, fino al Valle di Chioggia, nella Laguna, dall'Adige praticamente al come si può dire, a Feltre, alle porte di Feltre. Questo sarà un problema, detto tra parentesi, se dopo 2000, come credo, si penserà veramente di adeguare i confini diocesani alle province, cosa che nel Veneto direi che è molto problematica, per ragioni più che altro storiche. Questo strumento di consultazione è molto utile, però, come ripeto, non è uno strumento archivistico. Il fondo Arti Digitali o visite pastorali comprende, secondo la dichiarazione pubblicata anche nella guida degli archivi ecclesiastici, 304 unità. Però devo avvertire che queste 304 unità al 1990 danno l'idea di un fondo aperto, come di fatto è. Cioè si parte dal volume 1, che comprende visite dal 1422, poi con spezzoni di visite degli anni 30, degli anni 40 e 50 del 1400, fino all'ultima visita pastorale chiusa, cioè dal defunto, dal predecessore del vescovo attuale. Ovviamente il problema è la data ad quem per la consultazione, che è molto controversa. Di fatto è alla fine della prima guerra mondiale, però c'è il caso di una pubblicazione che ha utilizzato le visite pastorali fino al 1923, per cui possiamo pensare a un termine di 70 anni. La consistenza, con il numero di unità archivistiche, sono quasi tutte legate proprio al registro, compresi anche gli atti preparatori, le risposte ai questionari, e escluso però il materiale, diciamo così, di contenzioso in sede di visita o di decreti, che a volte in altri fondi. Comunque il numero delle unità archivistiche, essendo una serie aperta, si accresce. Sino al 1923 si tratta di 171 volumi, dove per volume si intende con unità fisicamente tra le 400 e 500 carte. Soprattutto per i 500, 600, 700, i volumi che sono dei in specie di quasi un foglio, per usare un termine di antica economia, sono momentanei. Ovviamente le relazioni, il viaggio della visita è sempre in latino, a volte è anche l'autografo di alcuni vescovi, è in latino anche fino al 1920, mentre a partire dalla metà del 600 le risposte dei parroci a un questionario, e sul questionario c'è tutta una bibliografia, sono in lingua volgare. Fisicamente, come potete capire, si tratta di un fondo che non si può nemmeno esaminare di persona. Però fortunatamente l'archivio vescovile di Padova ha conosciuto almeno tre stagioni e sta conoscendo ancora tre stagioni di interesse storiografico, e qui mi sento più a mio agio perché posso riferire anche di ricerche note e di iniziative forse anche meno note. Negli anni 60 alcuni studi, chiave anche piuttosto approfondita, furono compiuti sulle visite cinquecentesche dell'epoca immediatamente precedente e successiva al Concilio di Trento, in particolare dal professor Preto e il vescovo, atti delle visite del vescovo Niccolò Ormanetto, già segretario di capo Borromeo e importatore di un modello di visita borromanica non perfetta perché spesso così era più breve. Comunque siamo in pieno clima della riforma fiorentina. Proseguendo nel tardo 500 e 600 comincia a crescere in maniera vertiginosa anche la mole dei volumi relativi agli atti digitali dei singoli vescovi. Si va dai 6 del vescovo Marco Corner a cavallo tra 1500 e 1600 ai 37 volumi in media di 500 fogli di Gregorio Cardinal d'Abbarigo, santo ben noto. Ma anche nel 700 la produzione e la raccolta di questi atti arriva a consistenze di 13 volumi, sempre di quelle dimensioni, anche proprio fisicamente sono di quel tipo, anche se delegati più tornate. Agli 11 del vescovo che chiude un po' il periodo d'ansia regime, cioè Nicolò Antonio Giustiniani, che muore proprio nel 1796. E con una punta interessante alla metà del 700 col vescovo Carlo Cardinale d'Azzonto, poi ovviamente decimo terzo. E con la fine del 700 inizia il discorso di un altro interesse storiografico, che è quello che abbiamo sentito ricordare anche ieri più di una volta. Delle visite dell'Ottocento. Proprio all'interno della collana dell'Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa di Vicenza sono apparsi volumi con la registrazione delle visite pastorali dei vescovi di Padova dal 1809 al 1923. È l'unico caso per il Veneto di copertura. È un caso proprio di copertura totale che non esime da andare a così a consultare i materiali, ma che certo dà uno strumento prezioso. È uno strumento prezioso perché con alcuni alti e bassi, ma questi volumi hanno tutto sommato anche una discreta e a volte anche una intelligente apertura di tipo archivistico. Descrivono la consistenza del fondo e soprattutto nella registrazione del diario della visita o dei questionari mettono anche le referenze al volume e alle carte. per cui si tratta di uno strumento di orientamento essenziale. Ecco, quello che è importante è che si tratta di materiali apparentemente meno difficili rispetto al 5, 6 o 700, in realtà di mole molto laboriosa da digerire. Perché? Perché nell'800 si tratta perlomeno di una decina, a volte 15 o 16 grandi volumi, sempre delle solite dimensioni o del formato protocollo, che raccolgono atti di una, a volte due visite compiute dai singoli vescovi. Praticamente c'è anche una crescita in qualche modo esponenziale durante questo secolo nella mole dei materiali raccolti e comunque non consultabili. Perché se andiamo dalla quarantina di volumi del vescovo Pellizzo, che finì la seconda, anzi lasciò incompiuta la seconda visita nel 1923, si arriva ai 45 del vescovo Agostini, poi patriarca di Venezia, che chiuse la visita nel 1946, però dico ancora, questo è materiale che non è consultabile e non è tornato non consultabile da un po' di tempo anche quello che prima era consultabile, cioè nel 1923. E così ho parlato anche del secondo momento di interesse storiografico per questo materiale. Il terzo è relativo al periodo del cardinale Barbarigo di San Gregorio ed è in piedi, anche in prospettiva di questo convegno dell'autunno. Però si tratta di un materiale estremamente difficile che potrebbe anche essere studiato con qualche sistema informatico, ma non è il campo della mia attività. Grazie. Se noi ringraziamo il dottor Gallo e procedendo abbastanza brevemente, tornando ai nostri tempi, passiamo a Rovigo Adria. Rovigo, io non so se sarò bravo, se non necessariamente breve. Ecco, dica però anche il suo. Don Sacco, io sono nuovo, non certo che tanto, nel senso che sono relativo da un anno e mezzo. La Casosì è un sito della parrocchia dove c'è un tappo abbastanza consistente, c'è del buco del figlio perché ha la figura attivista che ha morto e sono andato a finire lì, quindi cominciato un mio interesse completamente nuovo. Ecco, motivo anche di alcune cose particolari. Per quanto riguarda la diocesi Termine Fabio Rovigo, per caso la chiesa metallica e la diocesi ha una storia molto particolare perché proprio al confine esterno del Veneto, diciamo sulla linea del Po, che aveva avuto un corso meno stabile di quanto non si pensi, quindi quella parte della diocesi fluttuava sopra la Venna, sopra Ferrara, eccetera, per cui la composizione della diocesi attuale risale si può dire al 1815. Della diocesi ci sono alcune parti importanti che dipendevano un tempo centrale dalla partita della Magalizza che sono estratte nel 1792 e un'altra parte che dipendeva da Ferrara che sono entrate nel 1797 o poi diciamo 1815-18. E per quanto riguarda il contenuto diciamo di questa, la storia di queste parrocchie certamente data in archivi che non sono della Curia ma sono della Curia di Ferrara e soprattutto l'archivio di Stato di Modena e di Ferrara anche. E per cui cercare di quelle zone lì diventa un lavoro particolare. Io mi sono trovato lì a compiere un po' questo ufficio di attivista, lo diciamo diversamente comunque, e in un tempo, quello che era stato prima era una attivista, penso nel suo sottino, che viveva, amava il suo archivio, che lo conosceva direttamente, e era Monsignor Gabrielli, e dico subito che aveva, ultimamente aveva composto anche un volume grosso, intitolato Comunità e Chiese, prendendo lo spunto della visita pastorale che faceva allora il nostro vescovo, l'attuale vescovo di Trento, il signor Sartori, per cui l'archivista di allora ha spulciato tutta la serie delle visite pastorali. pastorale e tutto il fondo parrocchie per preparare, diciamo così, di parrocchia in parrocchia un profilo storico, pastorale, che può innamorarsi un po' di più sulla storia del Petrarca, e la cosa è pubblicata in un grosso volume. Morto questo, per iniziativa del cancelliere, ha affidato il compito a una ragazza giovane preparata bene, ecco, di guardare che cosa c'è in archivio. Nel frattempo sono capitato a chi, ma dico allora fammi vedere che cosa scrivi, e siamo arrivati all'idea di dire, beh, già che lo scrivi, facciamo un elenco, che è tutto fuori questo, questo qui è spedito, è stato visto da tutti i vescovi e a tutti gli archivi del Triveneto. Ecco, io l'ho ricevuto. Bene. E così, ma lo scopo era principalmente al servizio, per dire fai da te, per dire che nell'archivio ci sono queste cose qui, ma era proprio per me. Poi si è rivelato anche la parte utile. Bene. Per quanto riguarda il fondo delle visite pastorali, queste vanno dal 1472 al 1987, sono 90 buste. E in maniera abbastanza continua, parte del parentesi del prima, ecco, della Bangavizza, dove i documenti vanno reperiti altrove. Per quanto riguarda le visite pastorali di quelle parrocchie che dipendevano da Ferrara, vanno dal 1591 al 1697, noi abbiamo in archivio la fotocopia degli atti che sono invece all'archivio di Ferrara. Per quanto riguarda un po' lo studio di queste visite pastorali, che prometto in fondo un po' più osservato, studiato, abbiamo la pubblicazione totale degli atti del vescovo Jörg Molin, dal 1808-1833, e di Monsignor Molin, 1884-1899. Sono stampati anche invece, sono processi di laurea, inseriti in un contesto di studi, per cui anche sono anche reperibili molto, molto facilmente. E attualmente cerchiamo di riordinare così materialmente, intanto se possibile anche politicamente, tutto questo, rendendolo accessibile, e lo è, perché la gente viene, quindi creando altri piccoli problemi, cerchiamo di affrontare. Così adoperando anche la disponibilità di alcuni ragazzi e adoperando anche alcuni metodi, diciamo, informatici. Quindi, di alcune serie, della serie dei sacerdoti, della serie dell'anagrafi, abbiamo anche un inventario analitico di disco, diciamo, per cui lo possiamo bravo. Bravissimo, doppio, un doppio ringraziamento, una volta si diceva due babà, 20 babà. Va bene, a quelli nuovi, ecco, posso dare dopo, così credo che sono stati i criteri che hanno guidato qui. Nel volume sono le pagine iniziali. Se posso comunicare una cosa telegrafica, perché così non parlo con la documentazione relativa alla Bangavizza, alla parte, diciamo, la vicenda finale della Bangavizza è conservata nell'archivio del seminario di Chioggia. E non è catalogato, non si conosce. E anche nell'archivio di Stato di Vicenza. A giugno. Beh, se andiamo a fare le ricerche, proviamo anche parte antiche della Bangavizza in Monaco, in Trento. Allora, io sono Valerio Stato, io sono archivista, è un po' pieno con le notizie. Io vorrei vivere nel Trento in due parti. Uno di nostro problema, due abbastanza veloci. La prima fase di scrivere un po' quello che è il nostro archivio, che dal 93 è archivio diocesano, quindi archivio che è stato costituito tale dal Concilio del Vescovo, nel 1994 ci siamo dati uno statuto e un regolamento che dovrebbe praticamente sulla falsa linea di quello che è stato suggerito ieri dalla situazione linguistica e gli altri. Abbiamo aggiunto a queste cose anche una serie di intese tra gli orsi di Trento e la provincia autonoma, che ci permette di anticipare nei tempi quello che saranno poi le intese tra lo Stato e la 37, cerca di attivare gli altri cicli di ci permette anche di gestire in una forma abbastanza ben buona, direi, sia dal video che i progetti che dobbiamo fare. Stiamo vedendo di attuare anche queste incendie attraverso una collaborazione sempre più ampia e direi che grazie proprio all'autonomia e ai contributi generosi della provincia possiamo direi anche dare spazio, dare vita a dei progetti anche abbastanza buoni. Uno di questi progetti che è stato estremamente interessante è stato il gestimento di studi di attivi bloccati, che è stato fatto nell'87-88 dalla cooperativa Quinè, con la guida dell'artista di Cesano, e ci ha permesso appunto di avere un'idea esatta di quello che è il capitale documentario che esiste nella nostra parrocchia. Questo sentimento è stato poi usato anche perché in base alle intese si è riusciti a fare in modo a decretare gli interessi storici degli archivi parrocchiali, quindi porli per un certo verso sotto la tutela anche dell'autorità civile e permettere lo svelamento delle parrocchie e avere dalla provincia dei sussidi che permettano una maggiore e una migliore custodia del materiale stesso. Questo è il lavoro che abbiamo fatto, l'importante lavoro che abbiamo, che ci sentiamo orgogliosi anche di aver fatto, è stata la microfilmatura di tutti gli artisti, tutti i registri parrocchiali di Napoli, di una dei morti, al loro inizio fino al 1923, anno in cui tornerà il passato dei comuni. Sono stati filmati più di 5.000 volumi per 1 milione circa di fotogrammi che servono adesso moltissimo sia per ricerche a livello universitario, quando si tratta di indagare una zona dal punto di vista demografico e anche per la questione sviluppi economici, eccetera, sia moltissimo per quello che riguarda l'aiuto che diamo agli emigrati che cercano notizie dei loro antenati e non alle volte non sanno proprio più esattamente a chi rivolgersi. E poi direi anche per la possibilità di una conservazione migliore dei documenti nelle varie parrocchie. Noi ci siamo accorti appunto queste indagini come dall'inizio del secolo fino adesso, soltanto di registri parrocchiali, di registri anagrafici, ne sono persi più di 500. Un po' per la guerra, un po' per furti, un po' per danneggiamenti da quel genere, quindi poterli conservare vuol dire anche garantire che da qui in avanti almeno si spera che forse non ci saranno più. Ecco, questo è quello che riguarda il nostro figlio. Per quello che riguarda gli atti visitanti, noi abbiamo il primo atto visitante che è il cardinale Bernardo Tesio, che ha iniziato la visita nel 1537. E la conclusa nel 1538, non direttamente ma attraverso un collaboratore, ha visitato tutta la diocesi. E anche qui la diocesi ha avuto parecchie traversie nel tempo, ha avuto variazioni di confini del più esistenti alla fine del secolo XVIII, con Giuseppe II e poi ultimamente abbiamo rettificato i confini con Bolzano, facendo combaciare i confini politici con quelli religiosi. Ecco, e la seconda visita è importante, direi, che la prima visita dopo il concilio è stata fatta nel 1579 dal cardinale Lorenzo Manuzzo, che anche lui ha visitato tutta la diocesi, e una visita interessante appunto perché si permette di trovare, vedere come è stato attuato il concilio quando nella zona dove era stato celebrato. Direi che anche altre visite importanti sono nel 700, quelle di Michele Spau, soprattutto del cardinale, quello che sarebbe poi diventato il cardinale di Vienna, Leopoldo Firmia, e poi il Cristoforo Sinto de Lois. Noi per il 700 siamo, direi, con queste visite coperte abbastanza bene per conoscere la nostra situazione religiosa, civile, eccetera. poi per avere altri importantissimi risultati abbiamo delle selezioni bici che è iniziata nel 2002, una è iniziata nel 1904 e l'altra dopo la guerra, dopo il 1924 inizia la seconda che si concluderà nel 1940. Abbiamo direi la consistenza delle bici di pastorali, 750 tra Bologna e Mosca, e ci manca da esaminare qui l'ultima vista pastorale del predecessore della Paravesco, Tutardi, e l'ultima vista che è in atto per avere un signor Sartori che si presenta in una consistenza abbastanza grossa. Direi che anche noi abbiamo dei volumi tenuti bene, oltretutto tutto è microfilmato, quindi possiamo mettere a disposizione degli studiosi tutti i microfilm senza toccare anche noi gli originali. E abbiamo alcuni volumi miscellani che rompono un po' le serie, però direi che complessivamente siamo sullo standard normale della scrittura in latino fino alla fine del 1600. Le poste dei parroci anche noi in italiano da 1600 in avanti e basta. Un video, doppio ringraziamento e veniamo da Trento ovviamente, Trieste. Beh, una pinata storica nella storia dell'Italia. E parlerò naturalmente di due e forse una cosa sulla situazione su Trento che lui ha sempre detto se è una presidente di controllo. Un po' di voce. Voce! Allora, per Trieste c'è un problema di storico che ha massacrato parte traslochi, parte vicende belliche, tutti i vecchi che sono massacrati da vicende belliche, parte incendi, parte imposizione interna per cui i notari si portavano via le documentazioni. E i vescovi li portavano via le documentazioni sui familiari, cioè la morte del vescovo per la documentazione personale, per dire la fine è rimasto. Diciamo che l'archivio del professor Vive anche per questo fatto da parte che si è studiato pochissimo, cioè praticamente non tutta, se non per alcuni studi di epoca contemporanea, però non specificamente come fisica, ma anche con alcuni riferimenti del professor. La parte della serie CIM è completata anche nel suo processo di scritta e poi per i criteri che sono stati usati nel riordino delle buste e la parte digitale è completamente diversa, per cui sono singoli documenti, piccole visite anche complete, inserite in varie buste, per cui ogni volta va ricostruito, io ho ricostruito logicamente la situazione. La prima vista comincia dal primo atto che ho trovato nel 1969. E si dà appena, perché ci siano visite precedenti, perché ho delle regioni della linea italiana, che comincia. E la prima visita di una certa consistenza è la vita di 1693. Comunque è questa che compresa fantasia. Poi sono sempre atti sparsi, piccole visite solamente per luoghi precisi, fino alla fine del Settecento, dove c'è l'esterizzati che italiani che trovano anche sua importante. Questa visita un periodo la trovo nella parte anzi del giro, un periodo che è spostata dall'altra parte, dovrebbe stare nella parte vecchia. La seconda è proprio fisicamente separata, cioè c'è una stanza e una stanza poi la parte dopo la decina. Dando la parte dell'Ottocento in poi, fisicamente le ordinate sono più coerente per serie, non ci sono grossi compiti, quindi non hanno fatto una separazione netta tra livelli culturali, comunque ci sono delle buste che si chiamano bicicletta e sono 10 buste, di cui però ben 6 sono quelle delle scorse che vanno da 39 in poi, per cui non è che ci sia una documentazione. Le visite di questa parte da tutto il mondo sono state inserite anche nel 1792, perché cominciavano a essere più consistenti, un po' più coerenti, e erano spostati da tutte le parti. Però sono solamente quello del 1792, e quello del Pubblizzano, 1796, che trovo molto molto importante, molto più importante. Il resto è fatto di, soprattutto le due prime buste dell'Ottocento, sono abbastanza simili materiali che ci sono inseriti, sono abbastanza parenti. Dalla busta 3 comincia l'attività, che ci fanno qui da 20 anni, che ci sono 21, che è un'attività di visita abbastanza parente. Come notazione finale, le schede standardizzate, che a Ussia le posso trovare già nel 600, di visita, di riparo, ci sono però delle 5, non sono ancora. Poi a destra c'è un'altra parte, su cui posso ragionare di un'idea più ufficiale, che è custodita presso il seminario vescovile, ed è sono tre piccoli archivi delle tre diocesi istriane che sono state unite a Trieste e che dopo sono state unite, diciamo, e poi, quando c'è stato il momento bellico, l'ultima vicenda, sono state portate rapidamente a Trieste e dopo il caso di Osmo sono successe alla sono questi sono stati ordinati da quando sono fatto un inventario, e poi ottimo, da fatto una copertura pure per sorprendente artistica. Quindi è molto disponibile, c'è un vero e proprio strumento per lavorare. Qui all'interno degli archivi, Capodistria, Canova e Pedena. Sono piccoli come archivi, lo dico perché è un po' più consistente, Pedena è più piccolo, senza avere proprio di consistenza. Le parti di visita sono diciamo mescolate in tutto il resto del materiale. E quello di Capodistria, le visite cominciano già con, sono informali, con i primi del 500, sì, credo tra il 1525, e arrivano poi fino al sole del movimento della diocesi, nel 1930, quindi è diffusa anche questa richiesta. La diocesi che contiene in proporzione più visite è la piccola Cetella, e quindi quasi tutti gli altri sono nati, e sono anche quelli ordinati in maniera più coerente, o se hanno traslato soltanto quelli, non lo so. Di fatto è successo questo. Mentre per Capodistria le visite ci sono però abbastanza tardi, come diciamo, se sistemati, che abbiamo forse sono dispersi, fino alle 600 gli altri sono abbastanza massacrati, diciamo, questo grosso modo è il quadro che si vuole. Comunque gli archivi più consultati sono i tre archivi diffusi in un'unica sede che sono appunto questi consultati, hanno anche una loro struttura, un sistema di protezione. Mentre sul tipo di Trieste, in città, c'è sono dei problemi, perché anche le stanze c'è quello che sono, c'è tutto un problema diverso, non accedere. Sono tardi? Beh, non bisogna neanche cedere in gravità, ma ringraziamo la dottoressa Paolin. E veniamo a Treviso. C'è Treviso? Passiamo a... Ha lasciato l'intervento, ma siccome siamo senza la sua voce di dottore, passiamo oltre, leggiamo nella scheda. Io sono Don Pierluigi Mazzocarco, sono cancelliere della Puglia, quindi parlo non come esperto dell'archivista. Non ho potuto essere presente, però ho preparato per risposta una scheda, seguendo quella scheda che è stata mandata a suo tempo in preparazione di questa tavola rotonda. Io leggo, non sono esperto in materia, leggo un po' questa scheda, lasciate da voi un po' di interpretazione, abbiamo cercato di capire qualche cosa con la dottoressa. Io sono mai sicuro di va bene. Sì, sì. conosce più di me. Per quanto riguarda la gestione dell'archivio, l'archivio è aperto al pubblico, secondo un orario fissato, mercoledì, giovedì, dalle 15.30 alle 18. Per quanto riguarda i servizi agli utenti, dato dalla competenza e dalla buona volontà dell'archivista, poi c'è una professoressa che lo aiuta qua, riguardo questo ambito dell'archivio storico. Iniziativa in corso, in fase di ristrutturazione, di risanamento dei locali dove è collocato l'archivio storico, la vera terra del palazzo patriarcale che è stato restaurato, dove ha trovato collocazione anche il museo diocesano. Nella parte del piano terra sarà collocato appunto e collocato l'archivio storico. Per quanto riguarda lo stato materiale dell'archivio, l'organizzazione dei fondi, l'archivista dice che in generale il grado dell'inventariazione finora raggiunto è ancora poco funzionale e insufficiente per la catalogazione. E ci sono poi anche delle fonti che sono state edite, non sto qui a ricordare, comunque sono state elencate, qui per esempio l'inventario dei processi e sentenze del Santo Ufficio a stampa, cioè 1000 processi e inquisizioni Friuli, e altre fonti che sono state edite. Per quanto riguarda le informazioni specifiche sul fondo atti visitali, è da dire che il fondo unico è quasi completo, il fondo delle visite è quasi completo, altri documenti sono depositati presso l'archivio capitolare udinese, presso la biblioteca arcivescovile di Udine e presso l'archivio della Curia Vescovile di Parma. Per quanto riguarda l'archivio della Curia Arcivescovile di Udine, le visite seguono appunto la cronistoria. Ci sono 65 cartolari che partono dal 1585 fino all'ultima visita dell'arcivescovo Giuseppe Fortunato nel 1966. Sono dunque 65 cartolari. Poi ci sono anche degli studi esistenti fatti sulle visite, sono in genere testimoniali, fatto nel periodo del 1584, 1585, 1600. Ecco, per quanto riguarda poi l'uso dell'informatica in archivio, non c'è nessun uso dell'informatica presso l'archivio storico. Questo è quanto l'archivista ha predisposto, una scheda. In realtà la visita del 1566 sotto il bicchiere. E poi no, quella del 1570 che si trova in biblioteca civica e poi in inventario su biblioteca vescovile. E quella è la visita apostolica. Invece visita quella di Marco Valacco, la prima del 1566. Sì, ecco così, ci sono che chiesa parte in terra c'è Dioce di Milenia. E poi c'è anche un inventario, una questione di vita del 300 che è stato pubblicato di recente. Sì, e poi c'è lì uno degli archivi che ha bisogno della vostra parte. Non parlo più, consegno. Perché in questo scandalo che abbiamo pubblicato. È giusto perché questo archivio è quello che ha bisogno di questa scheda perché è stato dissezionato per e comunque è un grande archivio, quello sì, grande, sì. Importante anche per tutta la chiude. Ci sono tante praticamente nello studio. Ringraziamo il cancelliere che ha letto la scheda che parla per risposta. E comunque ringrazio di nuovo. Intanto andiamo avanti con Venezia. Venezia, diciamo, opera da Verona non mi pare che si sia fatto vedere e quindi andiamo a Vicenza. Venga. Il 2 maggio dalla via, per 30 anni che gli archivi di qua e di là, dentro l'archivio storico di Vicenza, tutti sono due archivisti. Uno ha detto l'archivio storico e per la consultazione e l'altro per l'archivio forense. mi è molto servito girare un pochino per 30 anni di coordinare gli archivi di Stato e anche gli archivi del Curia, e poter oggi, a chi viene a consultare il nostro archivio, poter dare collegamenti diretti, non solo diremmo per quanto riguarda gli atti ecclesiastici, anche tutti quanti gli altri diremmo, fondi che noi possiamo trovare in territorio Veneto. Leggo prima alcune cose in carattere generale. L'archivio storico della Curia è situato su tutta l'intera Romagna dell'Episcopio, di recente appositamente attrezzata e ristrutturata, con porte antincendio, con scaffalature in metallo, armate, con apposite scale, tavoli, in ogni locale, indipendente. Una grande sala riservata per lo spoglio e per lo scarto del materiale, trovata per una continua e migliore sistemazione delle buste, eccetera. Una numerazione apposita sulle porte dei 12 locali, numerazione su ogni scaffale, e di questi su ogni piano, con indicazioni di serie, in tutte riportate in dettagliato inventario e in apposita mappa, per rendere facile qualsiasi reperimento delle buste, che chiamiamo così noi altri, componenti le serie, le varie serie. A ricordi termini basterebbe dare all'utente l'inventario e anche senza l'aiuto, non si può fare, dell'archivista, potrebbe andare nel tal locale, nel tal scaffale, nel tal piano, nella tal busta, per prendersi dentro quello che gli occorre. Ecco, questo per quanto riguarda la sistemazione, diremmo, dell'archivio, no? Ecco, l'inventario, logico, è messo a disposizione degli studiosi e aiuta a individuare le serie, le buste, e di dare al materiale richiesto l'opportuna collocazione e segnatura, ugualmente importante. Abbiamo anche l'opportunità di aver avuto gli archivisti precedenti che sono vissuti negli archivi, diciamo, Mizzardo De Boni, no? Come sono dell'avversario. Ecco, e quindi per noi c'è stata una continuità, non rottura. Oggi purtroppo si costruisce molto distruggendo i precedenti e purtroppo volendo rinnovare, poi non resta né nuovo ed è distrutto il vecchio e si resta proprio con le mani in mano. Credo che sia molto importante nell'archivio non andare nell'archivio per cambiare, ma per cercare di aggiungere qualche cosa, no? La novità nella continuità, credo che sia una regola fondamentale per gli archivi, no? Ecco, la sala di consultazione è frequentata talvolta anche oltre la sua capienza, una volta siamo costretti a dire non c'è posto, la pizza è tornata un'altra volta. Ci sono sempre 8-10 persone che vengono, diremo, e direbbe quindi non abbiamo il locale sufficiente per la consultazione. Il vescovo Noni si è già disposto di andare nel seminterrato, ma è troppo militare, quindi sia per la conservazione dei documenti, sia anche diremmo per gli utenti che poi magari prendono qualche indisposizione, diremmo, no? Allora, il materiale. Sarebbe giusto scagliare. Dunque, un primo gruppo, diremmo, di documenti, di buste. Gli atti notarili ecclesiastici e civili dal 1430 a 1837, che sono raggruppati in 195 buste, le chiamiamo gli atti, o gruppi. Poi ne abbiamo 75 dispense matrimoniali. In questi atti notarili ecclesiastici e civili, che noi li chiamiamo o diversorum o octorum, c'è tutta l'attività della curia del passato, di qualsiasi genere, tanto civile quanto ecclesiastico, perché non so se nelle vostre province, nelle vostre diocesi, si sia verificato nel passato questo fenomeno, che notai della curia, cioè notai civili, rogavano anche per la curia, soprattutto durante le visite pastorali, non solo. Ma nei primi tempi, soprattutto dopo il Concilio di Trento, più di un sacerdote era anche il notaio del paese. Quindi, ecco, abbiamo questo travaso della nota civile al all'ecclesiastico. In altri erano presenti per avere una consultazione più possibile allargata, per avere una certa nozione, no? Lì cerchiamo, qui la modesta esperienza in tanti anni che abbiamo, ci ha dato la possibilità di indirizzare gli studiosi, appunto, allargare un po' l'orizzonte, diremmo, a dare dei suggerimenti, eccetera. Suggerimenti e assistenza che purtroppo i relatori delle università purtroppo non danno, perché abbandonano spesso, diremmo, gli studiosi, diremmo, la composizione delle tesi, che abbandonano se stessi e disperatamente vanno alla ricerca se c'è qualcuno che non ha conoscenza, eccetera, eccetera. No, questo ci è trovato molto a aver tempo. Chissà quanto purgatorio si farà fare all'esterno di aver occupato tanto tempo negli archivi, però si pensava che assistere, cioè cercare di indirizzare e possibilmente dare dei suggerimenti buoni a coloro che dopo dovevano istruire gli altri, pensavamo che fosse un tempo mal speso, direi, no? Tanto questo. Dunque, abbiamo altre 33 buste che erano contraddizioni, nullità, divorzi. 14 mazzi per concorsi parrocchiali, non per le collazioni degli ordini, neanche per le collazioni dei benefici. Patrimoni poi, 187 mazzi e buste. Abbiamo poi lo stato personale dei sacerdoti, soprattutto dal primo Novecento, quei giornali che venivano pubblicati in sede provinciale, anche dagli ispettorati scolastici, eccetera, no? Poi c'erano tanti sacerdoti che erano magari privati, ma erano anche maestri, che abbiamo gli stati personali, abbiamo dei bei fascicoletti, diremmo. Atti di curia poi, 46, visite pastorali, vedremo dopo più tardi, sinodi diocesani, atti, bolle varie, irregolari, monache, predicatori e confessori, processi, sentenze, assoluzioni, istituti cittadini di beneficenza di educazione, atti riguardanti il seminario, dal 1604 al 1895, era già detto, collezione dei benefici e anche degli ordini, 71 buste. Già dal 1300 abbiamo già documenti riguardanti la collezione sia degli ordini e sia anche, diremmo, dei benefici. Poi una grossa serie di 342 buste, che adesso sono diventate anche di più, con la costituzione di nuove parrocchie. In questo che noi chiamiamo, questa serie che chiamiamo Stato delle Chiese, vengono messi dentro questi grossi brustoni tutti gli atti che in copia li conserviamo e vanno a finire, quello originale va a finire nelle parrocchie, e quello che la parrocchia invia alla curia. Li mettiamo tutti dentro in un apposito brustone, riguardante le singole parrocchie. Stato delle Chiese. Poi abbiamo un'altra serie meravigliosa, diremmo, registri parrocchiali antichi, credo che anche tutti sappiate, pulsando le visite pastorali, come in genere i vescovi, quando vedevano negli archivi parrocchiali dei registri parrocchiali già completi, davano ordini di portarli in curia. Come sempre, alcuni erano obbedienti, altri invece no. Altri perfino facevano il duplicato, non solamente il duplicato dal 1816 con la registrazione anche civile, ma anche precedenti c'era qualche parroco meraviglioso che faceva il duplicato degli stessi registri parrocchiali. Per cui abbiamo il duplicato, abbiamo sia diremo, il registro in curia sia anche negli archivi parrocchiali. Non so se voi altri sia a vostra conoscenza. Quando nel 1953 è partito dal Vaticano l'ordine di dare la relazione sulla consistenza degli archivi parrocchiali, almeno da noi, hanno obbligato tutti i parroci a fare una relazione su che cosa conteneva l'archivio parrocchiale. Noi abbiamo tutte le parti di fotocopie, dovrebbero esserci anche, che hanno avuto mandato perfino da Roma perché non li trovano più. Sì. Però, credo che... Andiamo alle viste pastorali. Abbiamo la fortuna di noi che abbiamo 23 dunque visite pastorali, 25 buste che vanno dal 1452 al 1909. A queste si deve aggiungere le altre delle ultime visite pastorali, totale 101 buste delle visite. Abbiamo avuto la grande fortuna di aver avuto prima San Bin Vecchi e poi tutti gli scolari del professor Maltese, i quali sulle visite pastorali hanno formato centinaia, e ripeto quello che ho detto ieri, centinaia di tesi, ma certamente non prendendo solo le visite pastorali, ma le visite pastorali sono i cavalli di battaglia per qualsiasi tesi di carattere religioso, sia per le corporazioni religiose, sia anche per certe parti artistiche, perché qualche volta... sono due approcci diversi. Anche perché bisogna fare atto di omaggio al professor Maltese, se no, il quale ha tutto, diremmo, centinaia di tesi messe a disposizione anche nella curia, che è vissuto, diremmo, ha passato tutta la sua vita nel cercare che erano non solo nell'archivio della curia, ma anche nell'archivio di Stato. Purtroppo si è un po' limitato solamente nella diocesi di Vicenza, diremmo, no? Visite pastorali, allora, no? Cosa dobbiamo dire a Carlo? Abbiamo tante cose da dire, no? L'apertura dell'archivio, no? Lunedì e giovedì, dalle 9 a mezzogiorno, si pensa di accrescere anche il numero, diremmo, delle consultazioni. Ho detto che c'è l'archivista per l'archivio corrente e anche per quello storico e l'assistenza agli studiosi. E io sono venuto qua, soprattutto per questo, per chiedere questo grande favore. Noi ci troviamo in grande imbarazzo non per l'archivio, ma per l'utenza dell'archivio, per gli studiosi che vengono. Studiosi più o meno, tra virgolette, no. Perché c'è tanta gente che viene, diremmo, per domandare a fare l'albero genealogico, ecco, no. E quindi naturalmente si deve portare continuamente su e giù i libri parrocchiali, eccetera. Poi noi altri non abbiamo, nelle ultime settimane abbiamo proibito l'uso della fotocopiatrice che abbiamo nella sala delle consultazioni. Perché qualche volta il lavoro dell'archivista deve essere semplicemente che di fare centinaia e centinaia di fotocopie, perché oggi c'è la fretta, bisogna avere subito il documento, ecco perché allora si lavora a casa, eccetera. Una grande difficoltà per l'utenza da parte nostra, ecco perché sono scese ieri a certi particolari, proprio che noi ci troviamo imbarazzati. Dobbiamo fare le fotocopie o meno? Se non le facciamo, vanno di sopra, mi raga, degli altri, i quali dicono, beh, insomma, per una volta cerca di accontentare, eccetera, eccetera. Se ci fosse, ecco perché sono venuto veramente anche con tutta il desiderio di avere, in questo senso, suggerimenti, diremmo, no? Consigli, e anche eventualmente qualche, diremmo, anche regolamento che è stato fatto. È stato fatto nessun regolamento in altri archivi a proposito dell'utenza, perché, diremmo, anche lì c'è gente, diremmo, che viene semplicemente per perdere tempo, per cui qualche volta mi è venuta la tentazione di scrivere, chi ha tempo da perdere vada a cercare l'ufficio dove si può perdere il tempo. E qui io non so, questo favore grande io lo manderei ancora. Ecco, dopo. Quindi ringraziamo la linea per la passione e per il suo intervento. E veniamo a Vittorio Veneto. Una cosa, non so se ho dimenticato qualche diocesi, no, questo lì non mi pare. Come intervento siamo alla fine, cioè poi Venezia naturalmente. Thank you. gustosa come è stata la vostra presentazione, perché non è niente di personale in sostanza. Comunque ci sono quei altri attivisti, il Monsignor Cardone, il direttore responsabile, e Monsignor Rino, perché quello sono andato per 20 anni, quindi sono 20 anni che lavorano. Allora, l'archivio conserva documenti a partire dal 1820, in quanto la guerra di Venezia contro gli Ungheri per la liberazione di Cenere portò alla restituzione degli archivi. Nel periodo precedente, cioè del XIX secolo, si sono salvate soltanto alcune famiglie. E ci sono comunque delle copie di documenti risalenti dell'arco antico. Allora, io faccio una presentazione molto generale, perché tra le altre cose non siamo riusciti a stendere un lavorato proprio appositamente per questo problema. Allora, l'archivio è distinto in tre parti: l'archivio vecchio, l'archivio moderno e l'archivio corrente. L'archivio vecchio contiene documenti che vanno dal periodo 1820 e 1837, perché in quest'ultimo anno, appunto, 1837, è stato fatto un mio piano generale. E tutta la massa artistica in questo periodo è raccolta in 160 grandi buste. E l'intero inventario di questa parte dell'archivio è riprodotto con un repertorio di 900 pagine. I documenti sono suddivisi in 15 serie che sono chiamate referati. Il secondo referato è tutto quello che riguarda gli atti delle visite pastorali, il più comune scritto è il 1474. E questo secondo referato in origine comprendeva 19 buste, ma adesso rimangono solamente 10, perché il materiale delle altre 9 comprendeva le regioni di pastorci, è stato smembrato e determinato nelle buste del parrocchio, quindi il secondo non è assolutamente completo. Per quanto riguarda l'archivio moderno, questo inizia naturalmente nel 1828 e arriva fino al 1940, anche se con i documenti che vengono per i nostri giorni. L'archivio moderno non si attiva più in referati, bensì in rubriche. La voce referato è stata cambiata nel 1838, quando è stato fatto il primo della prima parte, in modo tale che si distinguesse appunto tra l'archivio vecchio che era morto e l'archivio moderno. L'archivio moderno ancora in fase di sistemazione, ma anche il territorio, l'indice, e c'è solo una parte che è stata illuminata e catalogata, e quella riguardante il seminario, e questa parte va dal 1586 al 1975, e poi c'è il tipo corrente che è suddiviso nei vari uffici della diocesi. Questo è proprio in sintesi dell'archivio. Ma questa è veramente una sintesi che chiude questa parte finale in Venezia. Ringraziamo la dottoressa e siamo, devo dire, io sono particolarmente contento di essere stato questo non moderato, pur in un moderato consensus, ma felice perché voi siete stati bravi nel essere estremamente contenuti nei vostri interventi. Quindi il ringraziamento è anche di voi in modo molto valoroso.